giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aziende friulane preoccupate per la crisi tedesca, alla quale ora si aggiunge anche quella del canale di Suez. Le esportazioni sono calate in un anno quasi del 10%. Dopo lo spiraglio che si è aperto ieri a seguito dell'incontro con il ministro Urso, è in corso l'incontro tra sindacati, Varsi, la Ministero e Regione. 300 dipendenti tornano a sperare. In provincia di Udine quasi tutti gli 11 distretti del commercio si stanno sviluppando o sono in una fase avanzata del progetto. Oggi il punto con Confcommercio. Il posto fisso anche nel pubblico non è più ambito come una volta, ma la Regione vuole farlo diventare di nuovo attraente. Domani sarà pubblicato un nuovo bando. È rimasto appeso 8 giorni al parapetto della grande viabilità prima che qualcuno se ne accorgesse. La procura conferma, il cittadino iraniano trovato impiccato in settembre si è suicidato. Nella squadra della RIS di Parma una carabiniera triestina e il tenente colonnello Giada Furlan che comanda la sezione chimica, esplosivi e infiammabili della RIS. La nostra intervista. A 30 anni dalla morte di Marco Lucchetta, Alessandro Sascia Otta e Dario D'Angelo, la fondazione promuove la prima edizione del premio Rotta Balcanica. I vincitori. Ha da poco riaperto a Trieste, dopo 21 mesi di chiusura, il Museo del Risorgimento e Sacrario di Guglielmo Oberdan. I lavori servivano a rendere accessibile il museo ai disabili con una rampa. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Lara Zani. C'è molta preoccupazione per le conseguenze che le crisi internazionali in corso, a partire dai problemi del Mar Rosso, ma soprattutto ancora prima la crisi tedesca, possono avere sul tessuto economico e in particolare sulle esportazioni. Il servizio. Il perdurare della crisi in Germania sta determinando effetti pesanti sulle vendite del Made in Italy. Molte regioni italiane sono esposte verso il mercato tedesco. Il Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ufficio studio della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, esporta il 12,2%, 1,8 miliardi, così suddiviso in ambito territoriale. Udine il 16%, per Pordenone il 15,2%, Gorizia il 10,2%, Trieste il 4,5%. Nei primi 9 mesi del 2023 l'export del Friuli Venezia Giulia verso la Germania è sceso del 9,7% su base annua. Elisa Qualizza, responsabile Centro Studi Camera di Commercio Pordenone e Udine. Si tratta di una perdita di 197 milioni di euro di export, quindi sicuramente un dato molto importante. In media italiana questo dato, ad esempio, è caduto ma del meno 2,4, quindi ci fa capire che siamo veramente molto esposti. Nei primi 9 mesi del 2023, secondo le elaborazioni dell'ufficio studi di Confindustria Udine su dati Istat, le esportazioni della provincia di Udine verso la Germania hanno registrato un calo del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In diminuzione anche le importazioni dalla Germania, ancora una volta prima partner commerciale per Udine, meno il 4,4%. Michele Nencioni, direttore generale Confindustria Udine. I settori più colpiti sono i prodotti in metallo, la metallurgia, gli alimentari e la gomma plastica. Sono settori che, diciamo, hanno flessioni che vanno dal 7-8% fino al 35% nel caso dei prodotti in metallo. È una piccola controtendenza sia invece per i settori dell'elettronica che salgono leggermente. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È in corso il nuovo incontro dopo il disgelo delle ultime ore tra i rappresentanti di Varsi, la Regione, Ministero e sindacati. Ieri, dopo un incontro con il ministro Urso, si è riaccesa la speranza per 300 lavoratori. Varsi, la Ministero, Regione e sindacati, di nuovo attorno ad un tavolo, questa volta virtuale, in via telematica, dopo quello che molti hanno interpretato come un piccolo passo indietro dell'azienda finlandese, anche se si dovrebbe definire un passo avanti verso i lavoratori e la ricerca di un accordo. Il passo è la proroga quasi definita del piano di solidarietà al 30 giugno, dopo che il contratto che riguardava gli ammortizzatori sociali era scaduto il 31 dicembre scorso e che il 9 gennaio Varsi aveva chiuso la porta in faccia istituzioni e parti sociali. Per questo il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva detto di voler adottare tutte le azioni necessarie per recuperare i finanziamenti concessi alla società finlandese negli ultimi 10 anni. Ieri il ministro, insieme al sottosegretario Fausta Bergamotto, ha incontrato il vicepresidente esecutivo di Wärtsilä, Roger Holm, accompagnato dal presidente di Wärtsilä Italia, Michele Cafagna. I contratti di solidarietà riguardano circa 300 lavoratori. La proroga permetterebbe così di proseguire sulla redazione dell'accordo di programma per la reindustrializzazione del sito, dove per ora di certo c'è soltanto l'impegno di Ansaldo Energia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In provincia di Udine quasi tutti gli 11 distretti del commercio previsti da una legge del 2021 si stanno sviluppando o sono in una fase avanzata del progetto. Oggi il punto con Confcommercio. In provincia di Udine i distretti del commercio sono 11, coinvolgono 63 comuni su 134, poco meno di 1 su 2 dunque, per una popolazione di oltre 350.000 persone. In quegli ambiti territoriali operano più di 12.000 imprese del commercio e del terziario, il 70% del totale provinciale. L'impegno della regione in questo ambito supera i 4,6 milioni di euro. I comuni che accompagneranno la regione nel finanziamento dei progetti, sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio di Udine, Giovanni da Pozzo, hanno avuto il compito di individuare un ambito territoriale nel quale sviluppare il progetto distrettuale. Quasi tutti i distretti che si sono costituiti si stanno sviluppando in modo coerente con le specificità del territorio di riferimento. In alcuni casi hanno già affidato l'incarico a professionisti, il cosiddetto manager del distretto, che avrà il compito di tradurre la visione del progetto in azioni concrete, anche ascoltando le esigenze delle categorie, spiega il vicepresidente di Confcommercio Provinciale di Udine, Fabio Passon. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Domani esce un nuovo bando di concorso della Regione Friuli Venezia Giulia che porterà 40 nuove assunzioni, 20 di diplomati e 20 di laureati. Il posto fisso anche nel pubblico non è più ambito come una volta, ma la Regione vuole farlo diventare di nuovo appetibile. Questa mattina ne ha parlato l'assessore Roberti. Trovare lavoro nella pubblica amministrazione è diventato più difficile, meno appagante e soprattutto meno ambito. È questa la percezione diffusa rilevata da un sondaggio condotto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il posto pubblico svilisce le competenze acquisite nello studio, dà poche opportunità di carriera e favorisce un ambiente non dinamico e la paga non convince nonostante la stabilità del posto fisso. Tutte convinzioni che la Regione Friuli Venezia Giulia intende ribaltare con una campagna promozionale che accompagnerà i suoi concorsi pubblici. Il prossimo sarà bandito a breve, 40 posti in regione, 20 per laureati, facoltà ingegneristiche e architettura e altri 20 per diplomati in ambiti affini come geometri e periti. L'obiettivo della campagna è insomma migliorare la reputazione della PA. Come spiega Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla funzione pubblica, serve a far capire quanto è importante il lavoro della pubblica amministrazione e quale impatto abbia nella comunità della regione. Oltre alla campagna è stato presentato il progetto di creare entro l'anno una scuola di formazione per l'amministrazione pubblica, un piano che segue in parallelo i percorsi formativi promossi dal privato. La scuola dialogherà con le istituzioni scolastiche superiori e con l'università, dalle quali recluterà i suoi allievi. Come spiega sempre Roberti, li formerà e alla fine del percorso di studi offrirà un corso concorso che permetterà l'accesso alla pubblica amministrazione. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 36 prepensionamenti su base volontaria e altrettante nuove assunzioni è quanto previsto dall'accordo siglato ieri al Ministero del Lavoro per il gruppo NEM, del quale fanno parte le testate locali del Messaggero Veneto e del Piccolo. I giornalisti in possesso dei requisiti avranno tempo fino al 15 febbraio per decidere se aderire. Le uscite, precedute da 3 mesi di cassa integrazione a 0 ore, saranno poi distribuite nell'arco di un anno fino all'inizio di gennaio del 2025. Aspetto particolarmente rilevante dell'accordo è il rapporto di 1-1 fra prepensionamenti e nuove assunzioni in un mercato del lavoro che generalmente applica il rapporto minimo imposto per legge di un'assunzione ogni 2 uscite. Le assunzioni saranno effettuate sia attingendo a collaboratori precari storici delle varie testate con un contratto in essere che selezioneranno giornalisti under 35. In attesa di avviare il nuovo confronto con la direzione sull'organizzazione del lavoro, il coordinamento del CDR del gruppo valuta positivamente un accordo che tiene insieme diverse necessità, dalla sostenibilità economica alla garanzia dei livelli occupazionali, e che assicura incentivi all'uscita, anche se restano dei dubbi sugli importi delle pensioni, senza alcun depotenziamento dei contratti per i nuovi ingressi. Diamo uno sguardo al tempo. Cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 7 gradi e 5 decimi, a Gorizia 4 gradi e 5 decimi, a Udine 5 gradi, a Pordenone 4, Tolmezzo e Tarvisio 0 gradi, Forni di Sopra 5 decimi di grado sotto lo zero, Sappada meno 4 gradi, Piancavallo 2 gradi, sul Monte Zoncolan meno 4 gradi e mezzo, sul Monte Lussari meno 2 gradi, a Grado 5 gradi e 5 decimi, a Lignano 6 gradi. Le previsioni: questo pomeriggio e in serata avremo cielo coperto con piogge moderate, la quota neve sarà a 1000 metri circa, in innalzamento verso sera oltre i 1500 metri sulle Prealpi e sulle Alpi Giulie, mentre verso la Carnia potrà nevicare fino a 800 metri circa, specie verso il Comelico. Il cittadino iraniano Karmar Biria, trovato impiccato il 24 settembre scorso, bendato e con le mani legate, appeso al parapetto di protezione dietro un guardrail sulla grande viabilità triestina, si è suicidato. Questa è la conclusione, sulla base dell'esito degli esami autoptici, diffusa con una nota dal procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo. L'autopsia non ha infatti rilevato segni di violenza perimortali e ha escluso definitivamente l'azione violenta di terze persone, facendo risalire la morte a 6-8 giorni prima del rinvenimento e attribuendola a un meccanismo di asfissia meccanica violenta in una persona con anamnesi patologica positiva per depressione. La relazione sugli esami autoptici è stata depositata recentemente da parte dei consulenti Stefano Delrico, Manuel Gianvalerio Belgrano e Michela Peruc, nominati dal PM titolare dell'inchiesta Maddalena Chergia. Prima donna al reparto investigazioni scientifiche di Parma, triestina, il suo grado è quello di tenente colonnello. Giada Furlan comanda la sezione chimica, esplosivi e infiammabili del RIS. Il suo è un lavoro delicato e determinante per l'esito delle indagini, un lavoro che si svolge in laboratorio, ma non solo. Elisabetta Zaccolo l'ha incontrata. Quando ha preso servizio 12 anni fa, era l'unica donna al RIS di Parma, uno dei reparti di investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, che si occupano di indagini tecnico-scientifiche e, nei casi più gravi, effettuano gli accertamenti sui luoghi del crimine per reperire prove utili alla polizia giudiziaria. I colleghi più anziani alzavano il sopracciglio. Ora la tenente colonnello Giada Furlan, nata a Trieste, non è più un'eccezione ed è arrivata a comandare la sezione chimica, esplosivi e infiammabili. In tutti questi anni c'è un caso che l'ha colpita di più, per complessità di indagini? C'è stato un caso molti anni fa, all'inizio della mia attività a RIS di Parma, dove un caso di morte apparente, morte naturale, in realtà era un caso di avvelenamento. Se noi non avessimo fatto queste analisi sui bicchieri da cui aveva bevuto la vittima, dietro ovviamente suggerimento dei miei colleghi della territoriale che avevano fatto i primi sopralluoghi e avevano evidenziato qualcosa che non tornava bene con il quadro della morte naturale, non saremmo riusciti ad individuare chi era in realtà ad aver commesso questo omicidio, e quindi due persone sarebbero rimaste impunite. Colleghi e magistrati vogliono risultati subito, ma i risultati di laboratorio arrivano dopo un bel po' di tempo. Purtroppo le tempistiche non sono quelle che si vedono nei telefilm, ma richiedono dei tempi molto lunghi. Dipende dal tipo di analisi, possono volerci anche mesi, ma non mesi perché la pratica viene lasciata lì o altre pratiche prima di lei da essere svolte, ma proprio perché le analisi sono estremamente lunghe. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ci ha raggiunto in studio Sebastiano Franco, che sta seguendo il colloquio in corso sull'avvertenza Varzila, colloquio che si deve essere appena concluso. Sebastiano, quali sono le novità? La novità principale è che l'accordo è stato raggiunto, la proroga, quella che chiedevano i sindacati e anche il Ministero e la Regione, è stato raggiunto l'accordo con Wärtsilä per la proroga dei contratti di solidarietà al 30 giugno. No, è ancora in corso la riunione, non è ancora finita, siamo ai commenti finali, l'anticipazione è arrivata dai sindacati, naturalmente felici di questo accordo, un accordo che dà ancora 6 mesi di tempo e sicuramente ossigeno sia ai 300 lavoratori che sono ancora in bilico in questo momento per quanto riguarda Wärtsilä, ma soprattutto anche per la redazione di un accordo di programma e quindi più tempo al governo e alle parti sociali per trovare una via per la reindustrializzazione del sito. Quindi buone notizie sul fronte Wärtsilä, grazie a Sebastiano Franco per averci raggiunto con questa notizia. Noi proseguiamo con il giornale radio e parliamo della sociolinguista Vera Gheno che oggi a Pordenone per Uguali e Diversi, il progetto di cittadinanza attiva per la scuola secondaria di secondo grado. Vera Gheno, tra le maggiori sociolinguiste italiane, divulgatrice e traduttrice, è a Pordenone ospite del progetto Uguali Diversi dell'associazione culturale Tesis, dedicato ai temi di uguaglianza e diversità e rivolto a studentesse e studenti delle scuole superiori. La sociolinguista ha incontrato un migliaio di giovani oggi all'Auditorium Concordia con il monologo Grammamanti. Con lo stesso titolo, ad aprile uscirà il suo nuovo libro per Einaudi. Il nervo di questo spettacolo viene fuori da una lunga riflessione rispetto a come si possano amare di più le proprie parole e anche le parole altrui, perché secondo me è dall'amore che poi nasce il rispetto e anche l'interesse per usarle meglio. In sostanza io racconto 4 storie d'amore. La prima è quella che ha portato all'emersione del linguaggio nella specie umana. La seconda è quella che porta all'emersione del linguaggio in ogni singola persona. E poi c'è un pezzo sulla relazione fra gli esseri umani e le loro parole e in chiusa parlo della mia relazione con le parole e di come io sono diventata grammamante. Le parole contano e ci definiscono, anche quelle che scegliamo di usare o non usare in rete. Credo che riflettendo un po' di più sul senso delle parole sia anche possibile usarle meglio, magari usarle meno, perché uno dei problemi che abbiamo oggi è che parliamo troppo, scriviamo troppo, a volte potremmo trattenerci e pensare meglio se è veramente il caso di rilasciare in rete o anche nell'aria quelle parole che avevamo pensato di dire o di scrivere. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono passati 30 anni dal 28 gennaio 1994, giorno in cui persero la vita Marco Lucchetta, Alessandro Sascia Ota e Dario D'Angelo, i 3 giornalisti della sede Rai di Trieste uccisi a Mostar Est da una granata mentre giravano le riprese per un servizio sui bambini senza nome. Nel trentennale la Fondazione Lucchetta Ota D'Angelo Hrovatin li ricorda con il conferimento del premio Rotta Balcanica, una prima edizione dedicata ad un tema che vede Trieste come porta di accesso all'Europa per migliaia di persone che sono spesso vittime di violenza, torture, respingimenti e restrizioni arbitrarie. Per la sezione stampa il premio è stato assegnato a Linda Caglioni, giornalista freelance che per Altra Economia ha raccolto la testimonianza di un padre marocchino che ha perso il figlio sulla rotta balcanica nel maggio del 2020. Per la sezione immagini sono state selezionate Giulia Bosetti ed Eleonora Tundo di Presa Diretta Rai 3, che con il viaggio inchiesta al confine tra Bosnia e Croazia hanno documentato come funzionano le tecnologie per il controllo delle frontiere finanziate dall'Unione Europea e qual è il loro impatto sulle vite dei migranti in fuga sulla rotta balcanica. Elicotteri con termocamere che rintracciano le persone fino a 10 km di distanza, apparecchiature che individuano persino i battiti cardiaci, rilevatori di respirazione, milioni di euro di investimenti per trasformare l'Europa in una fortezza impenetrabile. Ha da poco riaperto a Trieste, dopo una lunga chiusura per lavori, il Museo del Risorgimento e Sacrario di Guglielmo Oberdan. Siamo andati a visitarlo. Timeus, Slata per Oberdan, Xidias, Crispi, Filzi e molti altri danno il nome alle nostre vie, piazze, scuole, ma conosciamo davvero la storia di questi giovani che diedero la loro vita per un ideale, quello dell'unità d'Italia? Li ritroviamo tutti nel Museo del Risorgimento e Sacrario di Guglielmo Oberdan, adiacente alla sede Rai di Trieste e che da poco ha riaperto dopo una lunga chiusura per agevolare l'ingresso ai disabili. Alzando lo sguardo si ammirano gli affreschi di Carlo Sbizzi, Bisà, donne sante laiche che rappresentano le città irredente, cioè tolte al dominio austriaco. Molti i cimeli, le immagini e i documenti di Guglielmo Oberdan, patriota triestino di origini austriache, impiccato per aver attentato alla vita dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Diego Redivo, storico. Il dicembre del 1882 viene portato qui, dove abbiamo la cella e l'anticella, è stata conservata di Obera. Il 20 dicembre lui viene impiccato e c'è una colonna che ricorda il punto esatto. Qui si toccano con mano i luoghi e i volti dei protagonisti dell'epoca, eppure, forse a causa dei lunghi periodi di chiusura, sono pochissime le scuole che portano qui i propri studenti. Ed è una nota abbastanza spiacevole pensare che sono sempre insegnanti di altre regioni d'Italia che portano le scolaresche qui. Perché qua in città c'è sempre la paura di polemiche politiche, polemiche di una comunità contro l'altra. Invece secondo me prima dovrebbero venire ad ascoltare e dopo possono dare un giudizio se il discorso è equilibrato. Il museo è aperto da giovedì a domenica dalle 10 alle 17 a ingresso libero. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo con una notizia di sport: posticipo di campionato della A2 di pallavolo maschile. La Tinet Prata gioca a Santa Croce sull'Arno in Toscana contro i Lupi, attualmente all'ottavo posto con 19 punti, mentre i pordenonesi sono quarti con 31 punti, inizio alle 19. Finisce qui il giornale radio regionale, grazie a tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.